Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Immagino che in tutte le vostre case fervano i preparativi per il Natale. C'è chi inizierà a festeggiare questa sera, giorno di vigilia, e chi invece per tradizione darà inizio ai festeggiamenti domani. In ogni caso ci aspettano giorni piacevolmente impegnativi. Ci sono tante cose da fare, da organizzare, quindi direi oggi dividiamoci un po' i compiti. Voi pensate a cosa mettere in tavola per il pranzo, per il cenone, e invece noi pensiamo al resto. Quindi direi alle occasioni di benessere da trovare, da sfruttare, che si possono presentare tra una cena e un pranzo, tra un brindisi e l'altro, tra lo scambio di auguri, grandi panettonate, chi più ne ha più ne metta. Allora, ho una squadra a vostra disposizione, intanto pronta a scendere in campo, stanno già facendo un po' di riscaldamento. Voi dovete naturalmente metterla in condizione di lavorare, quindi dirci come vi sentite, e un esperto, uno dei nostri esperti, vi darà il consiglio giusto per il vostro caso. Qualcuno di voi, ad esempio, sarà arrivato come me trafelato, senza energia, e quindi il suo sogno è un Natale da divano. Ma attenzione, perché la pigrizia va bene, però va dosata, perché a volte rischia di diventare un boomerang. Meno si fa, meglio si avrebbe voglia di fare. Per altri invece questi giorni saranno magari un'occasione per fare quello che nel tempo normale dell'attività lavorativa non è possibile. D'altronde la vacanza natalizia dopo quella estiva è sicuramente quella più lunga, ma attenzione anche qui a non strafare, perché se si chiamano vacanze un motivo ci sarà. Per altri invece il Natale è sinonimo di fuga dalla città, la ricerca di un po' di natura, di svago. Anche in questo caso però non basta scappare, bisogna ricercare un po' la strada, il giusto equilibrio. Quindi vi presento gli amici che oggi si occuperanno di noi, a cui chiedo subito di farci capire come possiamo approfittare di loro con un giorno d'anticipo, perché domani era difficile essere presenti domani, quindi festeggiamo lo stesso insieme. Magnifico. Il dottor Franco Confalonieri. Buongiorno, auguri a tutti, ben ritrovati. Inizia ad occupare, a dire come possiamo sfruttarla. Ma magari per capire come muoverci in modo divertente, piacevole, non affaticante, e che contribuisca a quell'idea di benessere globale che dovrebbe stare dentro anche in queste feste natalizie. Anche per le vacanze natalizie gradualità? No. No, poco e divertente in compagnia. Allora, volevo ringraziare Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica, lo faccio ora perché poi alla fine della trasmissione si scappa, Laura Vanossi in redazione, e volevo salutare, che qui in studio per me è un grande piacere, Benedetta Spada, insegnante di yoga. Ciao Benedetta. Buongiorno, auguri a tutti. Di te approfitteremo per occasioni, momenti di relax, è così? Sì, esatto, anch'io sono d'accordo con Franco, ritengo che queste vacanze vadano utilizzate ascoltando un proprio corpo, il proprio sentire, come riprendersi i propri tempi, e giustamente divertendosi anche, è importante questo. E si è ripreso anche un po' i suoi tempi, infatti non è qui con noi ma al telefono, è abbastanza trafelato perché con quella famigliona che ha sulle spalle organizza di qui e pranzi e feste e giochi e cotillon. Alberto Pellai, Albertino. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Ma come stai? Io sto bene, grazie. Oggi abbiamo in studio il dottor Confalonieri, ci manchi un po', ma vero? Va bene, faremo il prossimo anno, prometto, sarò lì. Però noi abbiamo invertito il ruolo, ci ma attenzione, perché ci sono delle sorprese, sai che io sono un po' così. 824 0024, questa non è una sorpresa, è il nostro numero verde, attivatevi, fateli lavorare questi esperti che il 24 di dicembre si sono presi direi un'ora di vacanza dalla loro famiglia con la scusa di venire in radio, quindi si stanno rilassando, metteteli al lavoro, lo faccio subito io, perché diteci un po' che cosa farete voi in queste vacanze, vediamo un po' se chi predica bene razzola anche bene. Alberto, eccomi qua. Allora, io ti dirò che in realtà proprio nelle vacanze cerco di fermare moltissimo tante cose e cerco di fermarmi anch'io, quindi cerco di ascoltavo prima i nostri ospiti che dicevano proprio l'importanza di rilassarsi, di ascoltarsi, usavano la parola ascoltare. Io credo che il primo consiglio che potrei dare a tutti i nostri ascoltatori è che in casa abbiamo, molti di noi, tanti bambini, tanti ragazzini che stanno crescendo, e a Natale ascoltarli, dare a loro l'occasione di essere ascoltati, può sembrare così un po' retorico, ma un consiglio concreto, perché per esempio non lanciare l'idea durante il pranzo di Natale di mandarli in un'altra stanza a organizzare un piccolo spettacolo di Natale per tutta la famiglia, dove devono inventare quello che vogliono, poi farli tornare lì vicino a noi e via, tutti in silenzio ascoltare quello che hanno preparato per noi. Questa mi sembra una buona idea, tu farei così? Sì. Io credo, ieri in casa ti giochi mia questa carta, ieri insomma. In casa mia c'erano già le prove generali, posso solo anticiparti questo. Poi ci racconterai. Intanto certo. Andiamo un po' a sentire il nostro amico Franco Confalonieri cosa farà. Divano, ma io sport, sono il classico che predica bene e razzola un po' male. Allora, sull'aspetto alimentare non mi concedo limiti, è abbastanza certo. Evidente, anche perché trovo che dal punto di vista appunto di quel benessere globale di cui si parlava, rinunciare a qualcosina proprio questi due giorni non lo trovo corretto, serve poco e magari ci impedisce di stare bene con noi stessi. Cerchiamo invece di gestire bene il tempo che non è passato a tavola ed eventualmente le giornate successive, quindi a tavola non poniamoci limiti, godiamo proprio della compagnia, del cibo, del vino e di quant'altro, senza stare a farci troppi pensieri, anche perché noi dobbiamo dire ci siamo già preparati, in teoria ci siamo portati un po' avanti, ecco, anche perché proprio l'abbiamo fatto pensando di non tediarvi sempre dicendo esatto, attenzione, esatto, togliete il grasso, aggiungete eccetera, mangiate serenamente bene, un po' di tutto. Rispetto ai comportamenti virtuosi, anch'io sfrutterò il fatto di avere una bambina piccola, in questi giorni proprio cercherò di organizzare tanti giochi fisici con lei, dall'inseguirsi al lottare, all'inventare delle cose insieme, e questo per mantenere un minimo di tono fisico. E poi altri suggerimenti me li tengo per il resto della trasmissione. Certo, perché sennò qua chiudiamo. Prima di dare la parola a Benedetta abbiamo Andrea che ci chiama da Salerno. Andrea, buongiorno, sì, auguri. Buongiorno. Io volevo chiedere al dottor Confalonieri, siccome io sono sempre stato in sovrappeso per parecchio tempo, per una ventina d'anni, diciamo, adesso ne ho 39, a un certo punto ho deciso di dimagrire e ho accoppiato, insomma, un intenso allenamento in palestra, soprattutto calcetto ogni giorno. Con una dieta. Un'alimentazione, diciamo, molto limitata. Ho eliminato pasta, pane, formaggio, dolciumi, tutti gli amidi, solo verdura, frutta, pesce e carne. E se va bene aver perso 20 kg in un mese e mezzo, questo tra il 30 di maggio e la metà di luglio, e adesso diciamo sono più o meno sullo stesso peso, quindi non come avevano profetizzato altri maligni che mi hanno detto li recuperi subito quei chili, perché adesso ho lo stesso peso, più o meno ero 103. Andrea, senta, ma noi stiamo quindi con tutti questi risultati, la puntata di oggi, io sono contenta che così le faccio gli auguri, ma la puntata di oggi è una puntata in cui vogliamo stare bene, parliamo di benessere, ma vogliamo soprattutto chiedervi e suggerirvi delle occasioni di benessere. Lei ha fatto questa dieta, ha investito molto nell'attività sportiva, forse in questi giorni vorrà godersi i risultati ottenuti. Dottor Confalonieri, come possiamo coinvolgere Andrea, che è un po' insomma fuori tema nella nostra trasmissione, ma sempre ben accetto, riportarlo al tema di oggi? Ma diciamo che queste feste sono anche un inizio, sono anche un capodanno, quindi un cominciare, un ricominciare. Direi proprio che Andrea deve ricominciare dal Natale a riscoprire un'alimentazione equilibrata, ricca anche di carboidrati, soprattutto la prima metà della giornata, rimettersi un po' in pace con se stesso e con la qualità della sua vita, e quindi recuperare un'alimentazione più equilibrata, e sicuramente manterrà i vantaggi che ha avuto e vivrà anche un pochino più sereno. Allora, Benedetta, prima di raccontarci quello che farai tu, diamo anche un consiglio, un regalo per Andrea, proprio un esercizio che tu gli suggerisci. Lui ha fatto tanta attività fisica, ha fatto una dieta molto restrittiva, mi auguro suggerita da un medico, i risultati sono stati forti. Adesso, come suggeriva il dottor Franco Confalonieri, Andrea si prepara a gustare queste vacanze e a riprendere un po' il passo, perché non è che si può stare tutta la vita a dieta, no, dottor Confalonieri? Certamente. Ecco. Certo. Allora, Benedetta, in questa occasione un regalo per Andrea e poi andiamo da te. Ma un regalo che potrebbe farsi Andrea è sicuramente quello di degustare, cioè di riprendere il gusto delle cose. Sì. E quindi di darsi anche il tempo, giustamente, perché rinunciare? Ma noi non abbiamo bisogno di rinunciare, possiamo iniziare appunto ad assaporare. Sì. Possiamo mangiare appunto un po' di tutto, gustare quello che mangiamo e cercare proprio nel sapore, nel tenere anche per esempio un boccone in bocca a lungo, nel masticarlo più volte. Ci sentiamo molto appagati e questo ci permette quindi anche di non esagerare con le quantità. E proprio l'ascolto di cui si parlava prima ci aiuta a fidarci di noi stessi, quindi della nostra anche fame, della nostra istintualità, quindi di non essere bombardati dai media, da anche una ricerca di perfezione assurda, ecco. Quindi lo yoga in questo caso è proprio riprendiamo il contatto con noi, fidiamoci del nostro corpo. Gli animali è difficile, a meno che non sono tenuti in cattività, che ingrassino o che siano in sovrappeso, ecco. Quindi proprio riprendere questo gusto, questo assaporare, per esempio anche quando stiamo fermi a lungo, non è che è solo la grande attività che ci porta a bruciare, ma se noi stiamo fermi, consapevoli del nostro corpo, quindi sentendo la nostra muscolatura, sentiamo appunto che tutto è in attività, che stiamo bene, che siamo vivi, e questo ci aiuta sicuramente anche a bruciare più calorie. Passerò il Natale in compagnia del mio anello magnetico antireflusso appena operato. Sarà un Natale leggero e in bianco, anche se piove. È fondamentale la passeggiata post pranzo. Benedetta, tu sì, la farai, sì, vero? Sì, esatto. Infatti io ci tenevo appunto a dire che questo periodo natalizio lo utilizzerò molto per camminare, perché amo camminare e spesso in città è poco possibile farlo, ma soprattutto perché la camminata è anch'essa una forma di yoga, è una forma Vede, dottor Confalonieri, lei lo sapeva? Di meditazione in movimento, in qualche modo. Si sta confalonierizzando, Benedetta Spada. No, nel senso che sono un grande fautore della camminata e naturalmente, essendo un mio cavallo di battaglia, l'avrei portato avanti anche oggi per Natale. Ma riagganciandomi proprio a quello che diceva Benedetta, c'è la possibilità a Natale di riscoprire la città in un'atmosfera, in una situazione diversa, perché e questa è un'esperienza molto bella da fare tra un pasto e l'altro, da fare per recuperare un po' di solitudine che a Natale manca, e siccome comunque questo è un tempo di ripensamenti, è un tempo di bilanci, c'è questa necessità della solitudine. Allora uscire, fare una passeggiata. Che in campagna come Alberto è molto fortunato, può fare una situazione ambientale. Ma Alberto ambientale non riesce mai a stare solo, questo più lo bella. So. Noi in città possiamo riscoprire una città diversa, certi spazi, certi ambienti, certe case che normalmente vediamo in movimento, assumono una luce diversa. E probabilmente incontreremo anche persone diverse. Se si gira adesso nel centro di Milano, sembra che Milano sia veramente una città in cui non ci sono italiani o in cui non ci sono bianchi. Ce n'è davvero pochissimi, però anche assumere questa percezione, sapere che abbiamo intorno tanta gente diversa, può essere un momento di meditazione che ci aiuta durante questo periodo e poi ci fa bene, perché camminare certo, è perfetto anche da un punto di vista della perdita calorica e della nostra funzionalità in genere. Volevo chiedere ai nostri amici da casa se c'è una cosa speciale che faranno in questi giorni di Natale e che magari vogliono consigliare a tutti noi, qualcosa che a loro piace particolarmente, li aiuta a stare bene, a sentirsi bene anche con gli altri. Ma allo stesso tempo vorrei anche capire, tanto che voi parlavate di riflessione, recuperare un po', no, la parte, la percezione di sé, se poi siamo alla fine dell'anno, facendo un bilancio in base anche all'esperienza degli anni passati, se c'è una cosa che alla fine delle vacanze di Natale si finisce sempre con rimpiangere, guarda, volevo fare quello e non ce l'ho fatta, volevo andare, volevo fare una telefonata a quell'amico che non vedo da tanto, non l'ho fatto, oppure volevo passare più tempo con i miei, leggere un libro impegnativo. Alberto, allora ti dirò che io una cosa che sono sempre molto felice di fare nelle vacanze di Natale è qualche gita alla scoperta di presepi speciali, e tra l'altro proprio molte volte tra il pranzo e la cena di Natale, visto che prima parlavate di cammino, per noi una gita bellissima è in un paese vicino a dove abitiamo noi, dove c'è la possibilità di ottenere una mappa che ci fa muovere per le vie di questo paesino e dove sono esposti fuori dalle case tantissimi presepi fatti dalle persone, e questa è una delle cose che i bambini in assoluto amano di più. Alla fine delle vacanze di Natale invece la cosa di cui mi pento è un'infinità di cose, e credo che devo proprio fare ammenda, avrei voluto o vorrei sempre essere stato anche fisicamente più attivo, perché purtroppo le vacanze di Natale sono bellissime, proprio chiudersi in casa, fare tante cose vicino ai propri figli, alla propria famiglia, e poi ti accorgi che hai mangiato tanto, ti sei mosso poco e la bilancia, ahimè. Allora, per queste situazioni magari poi ci sono, come ci saranno sicuramente, delle abbuffate, poi se ci sono grandi tavolate si sta più volentieri a tavola, si pilucca, e la fetta di Pandoro, il panettone, il cioccolatino, la nocciolina, la noce, eccetera. Noi avremo tra poco, anzi chiedo a Laura Vanossi di dare uno squillo al nostro amico Marco Temporini, il nostro medico, che ci suggerirà anche dei rimedi naturali che in qualche modo possiamo tenere a portata di mano, perché se la digestione diventa difficile, se c'è la testa diventa un po' pesante, allora andremo con i rimedi naturali. Il dottor Temporini lo stiamo cercando, tra poco sarà con noi. Dottor Confalonieri, lei di che cosa fa di bello e di che cosa magari spesso si pente di non aver fatto durante le vacanze? Quello di cui mi pento normalmente è il fatto di aver rimesso un po' d'ordine sia nella mia vita in termini di programmazione, sia nell'ambiente in cui vivo, cioè la casa in particolare, perché si dice sempre ne approfittiamo a Natale, sì, per rimettere un po' le cose a posto, poi non si fa assolutamente mai, e quindi un pochettino questo. Rilancerei proprio la tua domanda per coinvolgere gli ascoltatori oggi dicendo: raccontateci i vostri segreti, cioè cos'è la cosa particolare che fate proprio nelle prossime giornate, Natale, Santo Stefano. Il proposito anche. Da un lato quello che fate, dall'altro qual è il proposito che vi date e che magari non certo riuscite sempre a realizzare, perché così magari aiuterete anche qualcuno all'ascolto ad inventarsi un modo nuovo per riempire queste due perché giornate. Perché poi noi certamente andremo al cinema, faremo un sacco di cose in questa trasmissione. E finalmente è arrivato il dottor Marco Temporin. Buongiorno! Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Cosa farà lei in queste vacanze, dottor Temporin? Riposo assoluto, Nicoletta, perché è stato un anno molto stressante. Quindi una vacanza da divano? No, divano e un po' di sport, quello non deve mai mancare. Non è che lo dice perché c'è il dottor Confalonieri, eh? Assolutamente, io adoro lo sport. Dottor Temporin, interviene come amico, ma lei nella vita fa il medico, nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva, e ci regala spesso dei consigli per curare, prevenire alcuni acciacchini con i rimedi naturali. E noi sappiamo che un po' il tempo non gioca a nostro favore, questo tempo così freddo e pungente mette ancora a letto molti italiani, ma noi vorremmo sapere da lei se ha qualcosa da suggerirci per il pomeriggio, quello che segue quelle belle feste con tutti i parenti dove si mangiano cose buonissime, ma poi viene un pochino l'abbiocco, si sente la digestione un po' difficile. Dottor Temporin. Sì, allora prima di tutto bisogna agire in prevenzione. Ovviamente adesso ci avviciniamo a pranzi importanti, a cene copiose, per cui è molto importante, soprattutto per chi poi non vuole abbuffarsi molto, prevenire il problema utilizzando per esempio alcuni rimedi che ci dà la natura che ci permettono di aumentare il nostro senso di sazietà. Parlo ad esempio del glucomannano e del baccello di fagiolo, sì, che sono delle sostanze che contengono delle fibre, le quali prese prima dei pasti hanno il potere di assorbire dell'acqua e quindi andando ad aumentare il volume a livello gastrico aumentano il senso di sazietà. Inoltre hanno un'altra bella caratteristica, soprattutto il baccello di fagiolo, permette ovviamente l'assorbimento dei zuccheri e quindi limita poi che questi zuccheri possano gravare ovviamente nel nostro fisico. Quindi a chi lo consiglia questa sorta di prevenzione, chiamiamola così, dottor Temporin? Beh, sicuramente la consiglio a chi comunque, anche magari rinunciando alla dieta quotidiana durante i giorni normali, non vuole comunque aumentare troppo di peso, sì, ma lo consiglio anche a soggetti che hanno per esempio problemi con il livello di glucosio nel sangue, perché ovviamente avendo un assorbimento migliore degli zuccheri, questi non andando poi in circolo, abbiamo un effetto migliore anche a livello della performance fisica. Controindicazioni no. Persone che non possono assolutamente seguire questo suo consiglio? Beh, diciamo che soggetti che fanno utilizzo di farmaci devono, essendo poi fibre, quindi assorbendo, devono utilizzarle lontano dai farmaci e bisogna stare attenti a soggetti che hanno patologie importanti a livello del colon. Ecco, quindi la raccomandazione è sempre quella di parlarne sempre con il vostro medico curante, ma dopo pranzo, quando viene un po' l'abbiocchino, il dottor Confalonieri verrà anche a lei, no? Va subito a fare la passeggiata. No, io sono contrario alla passeggiata dopo pranzo. Secondo la passeggiata è verso le 5 del pomeriggio. Bene, dopo il pisolo. Esatto. Allora, dottor Temporin, andiamo un po' dopo che si fa il pisolino, però il dottor Confalonieri si alza, ha un po' esagerato, però insomma ci vuole, e si sente un po', come dire, appesantito. Dottor Confalonieri, facciamo sì. Stordito. Ecco, allora per il dottor Confalonieri stordito, che cosa suggerisce? Allora, per il collega, ma soprattutto per tutti, per avere un miglioramento di quella che è la funzionalità epatico-digestiva, soprattutto dopo pasti copiosi e importanti da un punto di vista di lipidi e di zuccheri, la natura ci offre una pianta molto importante che è la radice nera. Sì. La radice nera, il cui succo di gusto veramente forte, in quanto è tipo un ravanello, assunta dopo i pasti, permette un'azione di stimolo sulla colecisti, quindi una miglior digestione dei grassi e di conseguenza un ottimo aiuto per il nostro fegato un po' rallentato. Ecco, e il dottor Confalonieri torna nuovo e noi con lui. Dottor Temporin, buon Natale, grazie per essere auguri stato con noi. Grazie, auguri a tutti. Adesso noi facciamo una pausa, poi torniamo insieme. Voglio anticiparvi che l'avrete letto sui giornali, c'è una notizia, torna a vedere grazie alle staminali, leggo il titolo del Corriere della Sera. Un paziente che aveva avuto un grave danno alla cornea riesce a vedere grazie all'utilizzo delle cellule staminali. Naturalmente anche in questa trasmissione di oggi, che è un po' godereccia, parla di benessere, non potevamo non fare il punto su questa notizia. Essere e benessere. Eccoci, siamo tornati insieme, abbiamo una puntata con tanti ospiti perché oggi vorremmo, come ci ha suggerito il dottor Confalonieri, chiedervi se avete un segreto da condividere con noi per trascorrere in pieno benessere fisico e mentale queste vacanze, che sono una grande chance, no? Messe così alla fine dell'anno per recuperare energie, per fare bilanci, per fare progetti, ma vorremmo anche sapere da voi se c'è qualcosa che vi proponete di fare e poi alla fine non riuscite mai a mettere in cantiere. 824 0024, occasione di benessere in casa e fuori, per persone, per single, per famiglie allargate, con bambini, con adolescenti, con animali anche, perché molti ascoltatori ci scrivono: starò in compagnia del mio gatto, del mio cane. 824 0024. Ma io voglio salutare, aprire una parentesi, voglio salutare il dottor Diego Ponzin, oculista e direttore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. Buongiorno, intanto auguri dottore. Buongiorno, buongiorno e auguri anche a tutti voi. Senta, dottore, con lei cambiamo rapidamente pagina per commentare una notizia. C'è un bell'articolo oggi sul Corriere della Sera della collega Bazzi. Torna a vedere grazie alle staminali. Un ragazzo aveva avuto la cornea danneggiata durante una rissa. A distanza di tempo gli sono state, con l'utilizzo di cellule staminali, è tornato a vedere. Con una particolarità, queste cellule staminali dello stesso paziente sono state prelevate e messe a coltura su un tessuto particolare che è stato usato, mi sembra, per la prima volta, una membrana amniotica di placenta che è stata donata da una donna dopo il parto cesareo. Il ragazzo è tornato a vedere. Dottore, vogliamo commentare questa notizia che ci fa sempre assolutamente piacere, ma io vorrei arrivare anche in Italia, perché anche da noi si fa questo tipo di intervento e con grande successo. Abbiamo grandi oculisti, grandi ricercatori, una grande scuola anche proprio sulla cornea. Certamente. Allora guardi, la notizia è positiva, direi, perché parla di una realtà, quindi non di una promessa o di una potenziale applicazione, ma parla di una tecnica che realmente è a disposizione di alcune particolari tipologie di pazienti che hanno una cornea rovinata, sì, da un grave trauma, come in questo caso, o un trauma di un'ustione di tipo termico o chimico. Sì. Devo fare un paio di precisazioni che sono doverose. Questa particolare tecnica usata dai colleghi di Newcastle non è stata utilizzata da loro per la prima volta, ma la stessa tecnica, quindi l'espansione di questo tipo di cellule su un substrato di membrana amniotica, è stata utilizzata per la prima volta da un oculista di Miami che si chiama Shepherd Tseng ed è stata pubblicata qualche anno fa sul New England Journal of Medicine, quindi diciamo è un'applicazione importante, non è la prima volta che viene eseguita. Per la verità questa tecnica non trova, diciamo, l'Italia né impreparata né sorpresa, perché questa particolare tecnologia, quella di cui parliamo oggi è solo una variante, sì, è stata inventata da un gruppo italiano. Evviva. È stata inventata da un gruppo italiano che noi abbiamo avuto l'onore di avere qua in linea. Ecco, perfetto. Sì. Ecco, questo gruppo italiano, che è un gruppo, diciamo, multidisciplinare, che poi si è arricchito anche negli anni di vari contributi, ha esordito nel 1997 con una pubblicazione su Lancet, che è una rivista prestigiosissima, in cui erano prodotte queste cellule staminali partendo dall'occhio sano dello stesso paziente, sì, e venivano espanse su una lente a contatto per poi essere reimpiantate nell'occhio che ne aveva bisogno. Il perfezionamento di questa tecnologia, che dal punto di vista oculistico era stata, diciamo così, testata dal professor Carlo Enrico Traverso di Genova, sì, e dal punto di vista scientifico era stata messa a punto dai professori De Luca e Pellegrini, sì, attualmente in forza all'Università di Modena. Questo tipo di tecnologia è stata ulteriormente sviluppata e migliorata dal dottor Paolo Rama, chirurgo oculista attualmente in forza al San Raffaele di Milano, ed è stata anche poi estesa a tutto il territorio nazionale con il contributo della nostra organizzazione, che per prima ha realizzato un sistema che metteva a disposizione questa particolare tecnologia a oculisti diversi, a chirurghi diversi. Questo quindi spiega perché in Italia ci siano più di 200 persone che hanno già beneficiato di questa terapia in questi ultimi anni. Quindi numeri che sono sicuramente importanti e soprattutto successi della ricerca italiana. Assolutamente sì, assolutamente sì. Dottore, io la ringrazio perché grazie ci ha commentato questa notizia con grande chiarezza, ha dato a Cesare quel che era di Cesare, quindi abbiamo così anche nominato dei ricercatori che direi non solo il mondo ci invidia e che sono certo, italiani, certo, operano grazie anche, noi battiamo sempre e lo rifaccio oggi proprio in occasione di queste giornate di Natale, di investire e credere nella ricerca. Dottor Ponzin, grazie, grazie, grazie, tanti auguri. Arrivederci. la sera di Natale, cena degli avanzi, ci si ritrova tra amici a casa di qualcuno e tutti portano gli avanzi dei pranzi familiari. Così Marco, che ha mangiato a pranzo il cappone, si mangia la sera i ravioli di Cristina e torna a casa col salmone di pietra per il 26 mezzogiorno, meno noia e spreco. Magnifica idea, diamo 10 a questa idea. Non è firmato, ma se un ascoltatore anonimo che ha le idee chiare, poi mi piace questo, no? Lo ringraziamo molto, molto bello, un bel suggerimento. Andiamo a Pietro che ci chiama dalla provincia di Cremona, buongiorno. Buongiorno, io vi ascolto sempre, anche il dottor Confolonieri che lo sento tutti i venerdì e purtroppo vado anch'io a questo suicidio di massa con i parenti a mangiare, però io il 27 vado a fare la mia mezza maratona che il dottor Confolonieri sicuramente conosce perché è della zona di Milano, io sono iscritto a Zero Foramagno e vado a fare la mia mezza maratona il 27. Bravo, è allenato? Tutti i giorni. Vede. Solo sabato. Questo io vorrei che il Natale ci fosse una volta ogni 7-8 anni, perché non è possibile mangiare in quel modo lì, tutti obesi, non è possibile. Ma no, dai, ma non è, ma no. Dottor Confalonieri, dica qualcosa a Pietro. Uno si può anche moderare, gustare, stare con gli amici. Faccia come suggeriva il nostro ascoltatore, la cena degli avanzi e degli scambi. Così tutti scambiano e mangiano anche un po' meno. Dottor Confalonieri. No, ringraziamo il nostro ascoltatore perché ci ha ricordato una tradizione che c'è in tante realtà italiane, quella della non competitiva al 26 o il 27, questa di Zero Foramagno in provincia di Milano, una delle più famose, dove in tanti ci si ritrova tra amici, perché poi questi corridori sono amici fra loro, e ci si racconta il Natale, che non per tutti sarà stato un suicidio, in fondo per tanti è un bel momento, e poi si ammortizza gli effetti del Natale con questa corsa in compagnia. Quindi prendiamo il suggerimento, magari non proprio questa visione così negativa della festa. Alberto, una lettura più positiva della festa che regaliamo a Pietro, e poi intanto dico a Benedetta di prepararsi per un esercizio magari di riscaldamento per Pietro e per tutti coloro che scappano dalla casa nelle vacanze di Natale per dedicarsi all'attività sportiva. Alberto. Ma penso che poi nella costruzione proprio delle radici, dei legami familiari, dei ricordi che ci durano tutta la vita, il convivio del Natale è un momento fondamentale, sia proprio nel condividere un momento bellissimo, se ci pensi i ricordi più belli della nostra infanzia sono proprio le feste del Natale, sì. Sia credo anche questa cura nel preparare il cibo per una grande festa è proprio un ricordo che ti rimarrà per il resto della e rimane vita, anche ai bambini, i profumi, racconta proprio la cura della relazione attraverso un cibo che è alimento e nutrimento non solo del corpo ma dello spirito e delle relazioni. Ma quanto è bravo Alberto, se fossi qua ti bacerei. Benedetta, un esercizio flash, perché io voglio salutare un'amica, la dottoressa Evelina Flacchi, amica di Essere Benessere anche. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, auguri. La dottoressa Evelina Flacchi, che è specialista in scienza dell'alimentazione, ci regalerà anche lei un piccolo segreto per trascorrere in benessere questo Natale, ma prima spazio a Benedetta e poi siamo tutti per la dottoressa Flacchi, poi andremo al cinema, poi parleremo anche di noi, dell'occasione del Natale per aprire un po' il cuore. Benedetta. Sì, allora un esercizio in qualche modo anche per non rimpiangere, perché spesso ci si rimpiange durante queste vacanze di non essere molto se stessi, un po' di aderire appunto magari a certe mode, a certe abitudini che però non sono proprie. Invece cerchiamo di prenderci quello che vogliamo, quello che sentiamo, di stare bene con noi stessi e quindi di trovare dei momenti di convivialità, ma dove appunto poter portare anche le nostre abitudini sane. Una posizione che in questo caso potremmo afferrare la mattina prima della grande abbuffata, o magari la sera prima della nostra passeggiata, è la posizione del triangolo. La postura del triangolo, o tripode tra l'altro, a livello simbolico rappresenta la capacità di stare su noi stessi, di strutturarci, di sentirci forti. Non era il triangolo, no? Che cantava quello, perché il dottor Confalonieri è venuto subito in mente. Era non so come dire. Famiglia, poi mi propongono il triangolo. Dottoressa Flacchi, se lo ricorda il triangolo. Come no? Noi siamo feste della famiglia, tutti a Natale, vogliamoci bene. Chissà questo triangolo. Merry Christmas. essere e benessere. E andiamo di triangolo, dai, così. Benedetta. Ci portiamo in posizione verticale, distanziamo i piedi tra loro quanto l'ampiezza delle nostre spalle e ruotiamo la punta del piede destro in apertura verso il lato destro. Inspirando profondamente solleviamo le braccia lungo la linea delle spalle e portiamo la mano destra ad afferrare la caviglia destra o, se non è possibile, anche il polpaccio, distendendo il braccio sinistro verso l'alto, sì, in una proprio postura di grandissima apertura, sentendo che la zona della pelvi, addome e torace si espande ad ogni inspirazione ed espirazione. Questa postura la manteniamo per almeno 5 respiri su un lato e sull'altro. Tra l'altro utilissima per chi corre, scalda moltissimo appunto la muscolatura prima di un allenamento, è infatti anche utilizzata nel trekking yoga, ecco. Possiamo accompagnare le nostre pratiche, direi, con una frase che potrebbe diventare un po' la nostra freccia per l'anno nuovo. È forse quando non sappiamo più che fare che siamo giunti al nostro compito reale. È forse quando non sappiamo più dove andare che incomincia davvero il nostro viaggio. Vabbè, bella, Alberto! Stavo proprio riflettendo. Riflettili su questo, che mi sembra un buono spunto, ma dottoressa Flacchi, abbiamo bisogno di una coccola da parte sua. Certo. Perché è una sorta di portateco questa trasmissione. Ogni ospite viene qui e porta anche l'esercizio yoga, i consigli della corsa, Alberto ci porta in famiglia. Lei che cosa ci regala? Ma sicuramente potremmo approfittare del relax che abbiamo a casa. Magari farci un bel bagno caldo con... io direi il recupero dell'ambiente marino termale, utilizzando anche del semplice sale iodato, ecco, in una vasca normale possiamo già mettere 6 kg di sale, ecco. Sì. Quindi bisogna farne un po' di scorta. Sì, eventualmente sappiamo che questo ci può aiutare, non è un costo eccessivo. Mi piace. Ecco, e possiamo anche mettere, se amiamo anche qualche goccia fitoterapica, un 40-50 gocce di tintura madre di alghe marine, sì, in modo da creare questo ambiente. Teniamo presente che se soffriamo di tiroide questa aggiunta è controindicata. Certo. Ecco, poi quando abbiamo finito il nostro bagno caldo ci avvolgiamo in un bel asciugamano e beviamo una morbido. Tisana. Ma sì, ci portiamo tisana. Un po' le terme a casa, sì. Certo. Ecco, facciamo una spa casalinga. Sì. Dottoressa Flacchi, il suo collega, il dottor Confalonieri, quando lei ha detto bagno caldo, sale iodato, oli essenziali, mi ha fatto subito segno, voglio intervenire anch'io. Sì. Anche lei lo fa? Non no, ci ha mai voglio detto? Voglio intervenire perché proprio in questi giorni ho usato il sale per far scoprire i vari aspetti della natura a mia figlia, è stato molto divertente, quindi siamo usciti di casa e abbiamo usato il sale per sciogliere la neve che era caduta in modo abbondante qua a Milano. Poi con lo stesso sale abbiamo fatto il bagno, quindi il sale rigenerante, e infine l'abbiamo usato per cucinare. Per capire un elemento così semplice, un elemento che veniva dalla natura, quante opportunità ci dava. E questo è stato importante anche proprio perché c'è la natura, c'è il rapporto di un padre con la figlia e ci sono le tante dimensioni del vivere. Quindi Alberto, ho preso spunto da questa cosa. Alberto, parti subito col bollino blu per il dottor Confalonieri. Pallonieri, perché devo dire che ci dà dei punti, dovremmo... Gliene diamo due di bollini blu. Due bollini blu. Grazie. Dottoressa Flacchi, a proposito di due, ha una seconda rapida coccolina per noi? Ma possiamo anche farci una bella maschera naturale, ecco. Sì. Magari siamo un po' stressati da questi giorni di compere, di corsa, sempre di corsa, quindi abbiamo tutti in casa una mela e del miele e possiamo diciamo diluirla anche con un po' di acqua tiepida, questo impasto, sì, e fare una maschera rivitamizzante, poi buona. mineralizzante. Poi uno se la lecca, no? A colazione. Guardi, una parte la mangiamo, una parte sulla faccia. Esatto, senza farci vedere, ecco, magari dal marito. Ma sì, ma non importa. Se ci ama, ci guarda anche così. Dottor Confalonieri, questa vede che a lei piace fare tutta la cosa. Prima ne mangi un po', poi te la applichi, poi la rimangi e quindi c'è tutto. È la conoscenza trasversale. Magnifico. Della natura. Dottoressa Flacchi, spero che venga presto a trovarci, le auguro una buonissima vacanza, buon Natale, tanti auguri. Grazie, anche a voi tutti auguri. E noi adesso usciamo, ci siamo fatti la maschera, abbiamo fatto questo esercizio yoga, seguito i consigli del dottor Confalonieri, Alberto ci ha messo un po', e noi adesso si va perché sotto casa nostra ci aspetta Marta Cagnola e ci porta al cinema. Marta, vi aspetto con le mele per la maschera. Senti Mar, con le mele e vi direi subito con le polpette, vi spiego perché. Allora, intanto quest'anno c'è questo fenomeno del quale spesso a Radio 24 sarà difficilissimo evitare i cinepanettoni. Io non sono contraria per principio, certo è però che se qualcuno non gradisse questo tipo di comicità farà fatica a non trovare quei film, perché sono nel 50% delle sale italiane, degli schermi italiani, quindi sarà difficile vedere qualcos'altro. Io vi dico subito, perché non andare a vedere un Piovono Polpette, questo film che peraltro parla anche qui di alimentazione giusta e corretta, di sovralimentazione, insomma è molto divertente, soprattutto in 3D. Piovono Polpette è un film che forse è la sorpresa di Natale, direi che questo potrebbe essere un buon suggerimento. Se volete il cartone animato invece, quello tradizionale, quello della Disney, se siete rimasti al vecchio cartone animato, c'è La principessa e il ranocchio, una principessa in salsa jazz. I film più divertenti, più commoventi, voglio dire, però, escono settimana prossima, escono tra il 30 e l'8 gennaio, comincio già ad anticiparveli. Il 30 c'è Richard Gere con Hachiko, con la storia di questo cane che aspetta per tanti anni il padrone scomparso, si piange dall'inizio alla fine, quindi secondo me fa bene anche, non so, per la lacrimazione, che poi è catartico. E poi l'8 gennaio uscirà Soul Kitchen, si piange da ridere, quindi per tutte le feste i film per stare bene ci sono, non è che manchino. Marta, e noi poi prima della Befana ci sentiremo, perché noi festeggiamo sempre un po', noi insieme le feste, la festa della Befana, che è una festa che mi piace molto. Pensavo perché fossi io in tema con la Befana, no, e mi chiedevo ma perché mai? Perché ci sono le calze col carbone eccetera, per cui parleremo ancora con Marta Cagnola per darvi dei suggerimenti. Marta, un abbraccio, grazie. Tanti auguri a tutti. Però il Natale, noi abbiamo fatto tante cose, è anche un'occasione, anzi dovrebbe essere soprattutto l'occasione per nutrire quella parte di noi che per superficialità, magari paura, perché siamo confusi, abbiamo la mente altrove, spesso la trascuriamo, no? Chiamiamola cuore, spirito, sentimento religioso. A me mancano un po' le parole, ma il mio amico Don Mazzi mi viene in aiuto. Ciao, benvenuto. Ciao, buongiorno. Chiudiamo e auguri. Auguri. Chiudiamo con te questa puntata del Natale, perché tu riesci, ti diamo un compito difficile, ma tu hai sempre il dono di arrivare alla sostanza e indicare una strada che, devo dire, tutti possono percorrere. Ma stavo proprio scrivendo un pezzo per un giornale e facevo tre auguri italiani. Il primo era di riscoprire la tenerezza, capito? Sì. Perché credo che il Natale voglia anche dire questo, ma soprattutto un gesto dolce, forse il correre, pensando sti giorni che ho visto la tangenziale strapiena, sempre dico chissà quanti uomini, quante donne devono partire la mattina alle 6 per arrivare a lavorare alle 8:30, ripartono alle 6 per arrivare a casa alle 9, scoprire la tenerezza, capire cosa vuol dire ancora una carezza, cosa vuol dire uno sguardo dolce alla moglie, cosa vuol dire guardare il proprio figlio non perché deve fare i compiti, ma perché fargli capire che è stato il capolavoro più bello che abbiamo fatto. La seconda cosa è mettere il lavoro al secondo posto. Mettere il lavoro, soprattutto questo lo dico ai lombardi, va bene, agli italiani del nord, mettiamo il lavoro al secondo posto. Perché c'è già il secondo posto, è importante, ma il primo posto dobbiamo scoprire l'amore, la musica, l'arte, il silenzio, la lettura, perché credo che questo Natale abbia bisogno di questo. Sì. E terzo, riuscire a andare a letto ogni sera, va bene, e pensare che abbiamo fatto qualcosa di buono, cioè che non è noi scautisti dicevamo la buona azione. Riuscire ad andare a letto la sera e tra tutti i casini che sono successi dire però anche oggi qualcosa di buono ho fatto. Questi sono i tre auguri che io faccio agli italiani. E a te cosa devo fare, secondo te? No, sono miracoli, ma comunque no, è bello chiudere con questi tre auguri che arrivano dal cuore. Devo dire che Don Mazzi, tu riesci sempre a far muovere anche nei cuori più duri quella voglia di dire va bene, posso cambiare. Secondo me è questa, no, la tua grande forza. Perché comunque tu guarda, sei... io sono più ottimista dell'anno scorso, so che ti dica, quest'anno sono più ottimista dell'anno scorso. Ho aperto le educatori senza frontiere, questa avventura che io ho fatto per quest'anno, sono il doppio di giovani che vogliono andare durante l'estate a lavorare in Africa, in Sud America, eccetera. Il doppio dell'anno scorso, va bene? Cosa vuol dire? Diamine, se tu apri i giornali pare che tutti i nostri giovani siano fuori di testa, siano tutti con la coca, va bene, siano tutti ubriachi. Io ti devo dire che ho appena fatto un corso la settimana scorsa e in Italia ne ho 55, va bene, che vogliono tutta l'estate, vogliono partire e andare in Sud America, va bene? Il più vecchio ha 23 anni, il più giovane ha 17. Cosa vuol dire questo? Lasciamoci con queste parole di Don Mazzi, a cui auguriamo un buon Natale. Don Mazzi, un abbraccio. E grazie anche a voi. Grazie, ci hai portato il Natale. Buona giornata a voi, ad Alberto Pellai, a Franco Confalonieri, a Benedetta, voi che ci avete seguito, tantissimi auguri. Noi ci sentiamo domani. Una carezza, fate una carezza da parte mia ad una persona che avete accanto, che sapete di volere bene, ma tante volte a cui non riuscite mai a dimostrare il bene che li volete. Può essere un papà anziano, può essere un figlio con cui avete avuto una discussione, può essere la vostra compagna, perché no, anche la vostra collega di lavoro. A domani.